versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon lunedì 20 di gennaio, 16.35, praticamente 36, siamo in diretta agli studi Radio 24 qui di Milano. Andiamo, vado subito al punto del giorno per invitarvi a dire la vostra, chiamando l'800 24 00 24. Il tema è l'energia. E perché parliamo di energia? Perché mercoledì, cioè dopodomani, è attesa la prima proposta della Commissione Europea su un punto, come, se, di quanto e con quali vincoli innalzare gli obiettivi di, al 2030, di diminuzione dei gas serra, cioè del CO2, e di percentuali ulteriormente accresciuti di fonti rinnovabili. Allora, voi in teoria siete favorevoli a ciò di cui si è parlato in questi giorni sui giornali, cioè che ci sia una quota vincolante a quel punto di ulteriore abbattimento delle emissioni di gas serra del 40%? E che ci siano poi quote al 2030, non si capisce ancora se vincolanti o meno, quanto vincolanti a livello nazionale, di ulteriore accrescimento fino al 35% potrebbe essere della quota di rinnovabili sul mix di fonti energetiche nazionali. Diteci come la pensate. 800 24 00 24. Ma noi abbiamo deciso oggi di parlarne, perché queste sono materie tecniche molto specifiche, i mercati delle energie sono iperregolamentati a livello nazionale, le specifiche nazionali sono diverse perché i mix tanto delle fonti energetiche quanto poi le specializzazioni produttive nazionali sono molto diverse. È ovvio che un paese manifatturiero, noi siamo il secondo paese manifatturiero e quindi che ha più industria, è molto più interessato all'impatto di questo accrescimento di obiettivi rispetto a chi invece ha una quota di manifattura come valore aggiunto sul PIL che è metà, un po' meno di metà della nostra, come il Regno Unito. Ma però diteci come la pensate. Noi abbiamo deciso oggi di chiamare un esperto tecnico, appunto, perché tutto questo poi passa, quanto più gli obiettivi sono pressanti e vincolanti, tanto più hanno bisogno di incentivi per essere realizzati. Gli incentivi non sono nient'altro che l'accrescimento degli oneri che voi pagate in bolletta a casa, e noi abbiamo già sulla bolletta elettrica di un paese che ha i consumi elettrici in contrazione per via della crisi, cioè malgrado vi rendete conto che le tariffe non scendono. Perché? Perché la quota di oneri impropri, aggiuntivi voglio dire, lasciamo perdere che siano impropri, questo è il mio giudizio, ma di oneri aggiuntivi che voi pagate in bolletta, è così rilevante che i minori consumi e gli andamenti del prezzo dell'energia per tipo di fonti produttive non riesce a farlo abbassare. Quindi per noi come Italia c'è un problema forte, tant'è vero che le imprese Confindustria hanno detto: siete matti se ci date l'obiettivo del 40% di riduzione del CO2 al 2030. Detto questo, siccome la sensibilità ambientale è giustamente molto radicata, cerchiamo di capirne di più, anche perché l'Italia alla Commissione Europea si è presentata con due posizioni molto diverse. Il ministro dell'ambiente Andrea Orlando, anche ieri in intervista, ha firmato lettere rivolte alla Commissione, al commissario europeo competente, in cui chiedeva obiettivi vincolanti, alti e vincolanti, e sostiene che questo è nell'interesse dell'Italia, nell'interesse dell'Europa. Il ministro invece Zanonato dell'industria è su una posizione diversa, e quindi non si riesce a capire quale sia la posizione italiana. L'esperto per spiegarvi meglio tutto questo è Carlo Stagnaro, che è con noi, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buon pomeriggio e grazie Stagnaro. Buon pomeriggio. Allora, iniziamo, ci dica innanzitutto come la pensa lei su questa questione. All'Italia convengono obiettivi vincolanti, riduzione delle emissioni, delle rinnovabili? Quanto abbiamo già percorso del tratto del 2020, che era 2020 per capirci, eccetera? Che ne pensa lei? Ma a me pare ci siano due grandi temi sul piatto. Per quel che riguarda le emissioni, la questione è essenzialmente dove fissare l'asticella, visto che l'Europa ha un orientamento chiaramente favorevole a fissare comunque un target. È chiaro che puntare un target di riduzione del 40% al 2030 piuttosto che del 30% fa una differenza enorme. Teniamo conto che l'obiettivo al 2020 è di tagliare le emissioni del 20% rispetto ai livelli del 1990. Obiettivo che quando venne introdotto pareva estremamente complesso da raggiungere e che in realtà si rivela oggi sostanzialmente a portata di mano, non tanto per la nostra virtuosità o per i miracoli della tecnologia, ma perché, come ricordava, è arrivata la recessione e ci ha pensato lei a far chiudere le fabbriche, a far consumare meno energia. Per cui, come dire, l'obiettivo al 2020 molto probabilmente lo raggiungeremo in maniera un po' fortunosa, quello al 2030 lo è meno. Però la questione politicamente rilevante è quanto alzare l'asticella. Poi c'è un secondo tema politicamente rilevante che è: posto che vogliamo ridurre le emissioni, lasciamo alla libertà degli Stati membri da un lato e al libero gioco del mercato dall'altro l'individuazione degli strumenti per ridurre le emissioni di questa entità, oppure vogliamo ulteriormente regolamentarla? Detta in altri termini, siamo disposti ad accettare che per varie ragioni gli strumenti principali per la riduzione delle emissioni siano, per esempio, un ricorso più massiccio al gas come fonte di produzione elettrica alternativa al carbone, oppure il ricorso al nucleare come si sta facendo in Inghilterra, o ancora premere l'acceleratore sull'efficienza energetica, oppure vogliamo a tutti i costi che si utilizzino proprio le rinnovabili per arrivare a questo obiettivo? È un po' come, per buttarla, come dire, in maniera molto semplice, se si dovesse fissare un duplice obiettivo: dobbiamo andare da Milano a Roma e questo è l'obiettivo principe, cioè ridurre le emissioni. Lasciamo chiunque nella libertà di scegliere come arrivarci o diciamo che oltre ad andarci bisogna andarci in treno? La scelta è un po' questa. Chiaramente più vengono introdotti sotto obiettivi, più vengono regolamentati gli strumenti oltre che i target, e più questo riduce la libertà degli Stati membri e riduce anche la possibilità di sfruttare delle opportunità o delle tecnologie che magari oggi non abbiamo in mente ma che domani potrebbero esserci. Senta, come si spiega lei che il ministro Orlando ha sottoscritto alla Commissione la richiesta di un'asticella alta, come l'ha chiamata lei, e il più possibile vincolante, insieme però a paesi come la Francia e la Gran Bretagna che hanno nucleare e noi no, e che quindi hanno naturalmente un impatto per il raggiungimento di questi obiettivi che è assai diversamente meno pesante del nostro? Che senso ha una cosa simile? Come se la spiega? Ma io non vorrei apparire irrispettoso, ma dalla lettura dell'intervista sul Corriere della Sera di ieri ho il timore che il ministro Orlando non abbia ben colto quali sono i punti in questione. Un paese come l'Italia viene svantaggiato soprattutto in funzione poi della ripartizione tra gli Stati membri, ma essendo politicamente deboli in Europa, su questo non mi farei troppa illusione, viene svantaggiato da entrambi gli obiettivi, e questo per una ragione molto banale. La prima è che in Italia abbiamo un forte settore manifatturiero, e quindi una parte importante della nostra economia è molto sensibile agli andamenti dei prezzi dell'energia. Più vengono introdotti target sfidanti e più i prezzi dell'energia inevitabilmente sono destinati a crescere. Se non fosse così non avremmo bisogno di rendere obbligatori i target o gli strumenti per raggiungerli. Non solo abbiamo una parte importante della nostra economia manifatturiera, ma abbiamo anche un manifatturiero che è storicamente molto efficiente nell'uso dell'energia, ancora una volta non perché il nostro manifatturiero abbia il pollice verde a differenza di quello di altri paesi, ma semplicemente perché l'Italia è tradizionalmente un paese dove l'energia costa molto. Yes. E quindi i nostri hanno dovuto già sforzarsi, per ragioni che nulla hanno a che vedere con l'ambiente, per ottimizzare i propri cicli produttivi a fronte di un costo dell'energia elevato. È chiaro che quando sei più efficiente è più difficile fare progressi, esattamente per la stessa ragione per cui una persona molto magra fatica di più a perdere 10 kg di peso rispetto a una persona molto grassa. Senta, negli anni passati con i diversi 5, se non sbaglio, conti energia, noi abbiamo molto sussidiato nelle rinnovabili soprattutto il fotovoltaico, poi abbiamo un po' cambiato idea per l'eccesso veramente di miliardi anno a carico della bolletta e con quello che stava succedendo, e in presenza di obiettivi di questo tipo mi chiedo a quanto arriverebbero rispetto al livello attuale, che è meglio che ricordi, di incentivi annuali che ci abbiamo in bolletta per il raggiungimento di questi obiettivi, quanto si tradurrebbero in aggravi di bolletta? Stagnaro. Beh, Oggi gli italiani pagano oltre 12 miliardi di euro all'anno in incentivi alle varie fonti rinnovabili, circa la metà sono riconducibili al solo fotovoltaico. Ne paghiamo così tanti per la concomitanza di due fattori. In primo luogo abbiamo concesso incentivi estremamente generosi e secondariamente questi incentivi così generosi hanno determinato un boom ovviamente di investimenti nelle fonti remunerate in maniera così attraente, così attrattiva per gli investitori. Il risultato è che l'Italia per inciso si trova oggi nel 2014 ad aver sostanzialmente già raggiunto gli obiettivi che avrebbe dovuto raggiungere nel 2020, per cui uno la può vedere come un esempio di virtuosità, un altro la può vedere invece come una gestione non proprio ottimale del ciclo di investimenti, perché ci troveremo nel 2020 banalmente ad avere un parco tecnologico relativamente arretrato in media rispetto a quelli degli altri paesi che arrivano più gradualmente all'obiettivo. Quanto all'onere aggiuntivo è virtualmente impossibile dirlo, nel senso che dipende sia dagli obiettivi che effettivamente verranno stabiliti, sia poi dalle modalità che verranno adottate per raggiungerli, banalmente da quanto alto, da quanto generosi saranno gli incentivi. Certo è che qualunque sia la risposta, come dire, quantitativa, dal punto di vista qualitativo nessun pranzo è gratis e neppure il pranzo delle fonti rinnovabili. Se fossero queste fonti convenienti di per sé, verrebbero installate, come dire, spontaneamente senza bisogno di sussidiarle o di introdurre obblighi. Peraltro molti sostenitori del fotovoltaico in particolare sostengono che questa fonte, che ha avuto, come dire, un ciclo di sviluppo molto importante negli ultimi anni, sia ormai vicina alla cosiddetta grid parity, cioè alla cosiddetta alla competitività rispetto alle fonti tradizionali, le quali a loro volta sono gravate da tutta una serie di oneri che servono a incorporare nel loro costo di produzione anche il costo del danno ambientale che producono. E se questo è vero, probabilmente tutto sommato non c'è bisogno di incentivarlo. Ma perché dice se questo è vero? Non ci sono formule, diciamo, di convergenza attraverso le quali verificare se la grid parity è più o meno raggiunta o quanto lontana? Beh, sicuramente oggi fonti come il fotovoltaico sono più vicine alla competitività rispetto al passato, però poiché i costi di generazione di queste fonti dipendono per la quasi totalità dal costo dell'investimento, mentre i costi di generazione delle fonti rivali, come per esempio il gas o il carbone, dipendono sia dall'investimento sia dal prezzo della commodity, gas o carbone negli anni futuri, molto dipende anche da quale sarà l'andamento dei prezzi del gas e del carbone nei prossimi anni. Certo è che le grandi rivoluzioni che hanno attraversato i mercati gas ultimamente, la cosiddetta rivoluzione dello shale gas in Nord America, la possibilità di importare gas via nave e non solo via tubo, oggi rendono il gas sicuramente più competitivo e più economico, più abbordabile di quello che fino a un po' di tempo fa si pensava, e questo probabilmente allontana un po' la competitività del fotovoltaico, ma in fondo è una scommessa imprenditoriale, esattamente come qualunque imprenditore deve scegliere come costruire il suo mix produttivo, anche qualunque imprenditore dell'energia deve scegliere il suo mix produttivo e scegliere il suo mix di fonti, assumendosi naturalmente tutti i rischi relativi. Noi però ci troviamo in una situazione nella quale, questo ne avevo una conferma, se non sbaglio, mi dica lei, dall'intervista di Orlando, che per il raggiungimento di questi obiettivi, se fossero vincolanti e così elevati, naturalmente bisogna ulteriormente mettere mano agli incentivi, cioè ai sussidi, componente in bolletta. In più dobbiamo pensare a quel punto, diceva il ministro, a diminuire l'impatto sugli energivori e l'impresa, e anche in questo caso quindi si tratta di sgravi che vanno coperti e vanno in bolletta. In più poi c'è il problema che più facciamo così, più il mix su cui più avevamo puntato anni fa, cioè il gas a ciclo combinato nelle centrali, che rimangono poi improduttive in percentuali molto elevate in questi anni di contrazione dei consumi, anche lì bisogna in qualche maniera farsene carico di una percentuale, e quindi in bolletta e così via. È possibile mai che questi obiettivi verdi sanno così tanto di trasferimenti decisi discrezionalmente dallo Stato? Beh, qualunque sussidio, qualunque incentivo e qualunque obbligo è per definizione una scelta di trasferimento. Ed è vero quello che dicono alcuni, che in realtà ogni tipo di rivoluzione nelle fonti energetiche è stata sempre accompagnata da scelte di questo tipo? Sì, diciamo che questo che sia vero o che non sia vero è francamente discutibile. Quello che è rilevante è che c'è una differenza tra l'essere accompagnata e l'essere trainata, nel senso che un conto è dire che, per esempio, all'origine del boom dello shale gas negli Stati Uniti ci sono stati anche, non solo, ma anche dei sussidi pubblici, soprattutto nella fase di sviluppo della tecnologia. Altra cosa è dire che delle fonti che certamente non sono nuove e innovative, ma che sono su piazza commercialmente da decenni, continuano a vivere e sopravvivere solo in virtù della presenza di incentivi nettamente superiori al valore stesso dell'energia che viene generata. Detto tutto questo, il gas e le rinnovabili da tanti punti di vista si sposano bene, perché rinnovabili come il fotovoltaico e l'eolico hanno una produzione intermittente che non dipende dal gas, ci dà continuità e intensità, che ci manda tanto vento e tanto sole oppure no, e hanno bisogno quindi di essere affiancate a delle altre impianti di generazione che siano in grado rapidamente di controbilanciare i picchi verso l'alto e i picchi verso il basso. Passa una nuvola, i pannelli producono improvvisamente meno e deve da qualche parte esserci un impianto che colma il deficit. Il gas si presta molto bene, noi oggi però lo stiamo vivendo questa convivenza in maniera patologica, perché ci è arrivata tra i denti anche la crisi economica. La crisi economica ha fatto crollare la domanda di energia, perché tante imprese sono fallite, tante altre hanno ridotto le loro produzioni. Il crollo della domanda fa sì che tutta una serie di impianti convenzionali a ciclo combinato a gas, che ritenevamo, che chi li ha realizzati riteneva potessero essere necessari, potessero essere pienamente utilizzati, oggi siano invece sostanzialmente sottoutilizzati o addirittura per nulla utilizzati. Questo implica, per chi li ha costruiti, ovviamente dei costi fissi che non vengono recuperati. È un po' il paradosso che però, mentre tutto questo avviene, mentre la Germania sposa obiettivi vincolanti anche lei, la Germania realizza il massimo dopo tanti anni, 7-9 anni di produzione da carbone, e che sembrerebbe fare un po' a pugni con tutto quello che stiamo dicendo, o no? Beh, questa è la conseguenza naturale, prevedibile e prevista della decisione tedesca di abbandonare progressivamente ma rapidamente il nucleare dopo l'incidente di Fukushima. Per rimpiazzare il nucleare, che ha dal punto di vista tecnologico la caratteristica di produrre con continuità energia e quindi di adattarsi molto bene alla copertura della cosiddetta domanda di base, il mio frigorifero consuma energia 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, mentre il mio condizionatore consuma molto a luglio e molto poco o nulla a dicembre, e quindi il nucleare si presta molto bene. E quindi sono andati giù di carbone. La fuoriuscita del nucleare rende necessario sostituirlo con fonti che abbiano caratteristiche simili, e sicuramente quella più vicina sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista economico-finanziario è il carbone. Naturalmente. Certamente non il solare o l'eolico, che invece hanno degli sbalzi. In Italia questo, poi vediamo le proposte di centrale a carbone con grandi filtri di abbattimento, che fine hanno fatto. Detto tutto questo, Fabio da Padova, rapidissimamente, come la pensa? Ma penso che, buonasera intanto, sì. Penso assolutamente che si debba, io credo che comunque la scelta di andare sulle fonti rinnovabili sia una scelta corretta. Ma lei è per obiettivi vincolanti e alti, anche per l'Italia? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Perfetto. Carlo da Como, anche per lei è così? Sì, buongiorno Giannino. Sì. Buongiorno. Ecco, io sì, sono di quel parere. Il fatto è che, come diceva prima l'interlocutore, è che con questa crisi gli imprenditori stanno investendo meno, perché il futuro non è roseo. Però lei dice pensiamo a quando rilanciamo e ripartiamo. Questa è l'opinione di Carlo da Como. Mi scuso con Valerio da Firenze perché non abbiamo più tempo, e ringrazio Carlo Stagnaro. Io non sono per obiettivi vincolanti, ve lo dico subito, e sono per meno sussidi.